vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 19 giugno, il sole in regione è sorto alle 5.15 e tramonterà alle 21.02. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Mai come quest'anno sono state problematiche le intenzioni di semina per la prossima stagione agraria. Troppe le tensioni internazionali e locali, a partire dai contraccolpi della guerra in Ucraina con il blocco di mais, frumento e girasole, ai costi dei fertilizzanti e ora alla siccità che avanza. Ne parliamo nel pezzo di apertura, con una visione d'insieme anche dell'andamento del mercato in questi ultimi mesi e le aspettative del settore. A seguire, per la rubrica del biologico, una scheda sulla realtà francese, nazione che ha ripreso un ruolo da protagonista nel settore dopo il rallentamento dei primi anni del 2000. Ora può vantare numeri di tutto rispetto e soprattutto una invidiabile organizzazione delle filiere. Torniamo in cantina per seguire le delicate fasi della fermentazione alcolica, dove bisogna seguire con attenzione lo stato di salute e vitalità dei lieviti. Per la rubrica dell'orticoltura oggi di scena i carciofi, che stanno riconquistando un posto da protagonisti anche nella nostra regione. Altri protagonisti dell'orto nella rubrica della gastronomia, con i cavoli, i proverbi che li coinvolgono e una ricetta gustosissima con lo speck. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Mai come quest'anno le intenzioni di semina in Friuli Venezia Giulia sono state così problematiche. Vita nei Campi ritorna due volte all'anno appunto sulle intenzioni, su quale sarà l'andamento della nuova campagna agricola del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno tutti pensavano il problema della guerra, il problema dei fertilizzanti, i costi dei carburanti. Tutto vero, ma c'è un'altra emergenza che sta condizionando appunto queste intenzioni di semina. Ne parliamo con Daniele Castagnovic, che è presidente della cooperativa Granaio Friulano e presidente di Conf Cooperative del Friuli Venezia Giulia. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che, nonostante le direttive europee ci permettano di recuperare anche terreni destinati a seta SAI piuttosto che al greening con colture a cereali o oleaginose, gli agricoltori hanno scelto di quasi non seminare in queste zone perché nel tempo erano diventate quasi tutte zone marginali. Questo perché? Perché l'investimento ettaro è molto elevato, sia per seminare soia che mais, ma soprattutto per seminare mais. Ma soprattutto ormai da novembre, e per cui siamo arrivati alle semine, c'era già il problema, iniziava a mancare l'acqua. Abbiamo la sensazione, purtroppo si sta avverando in questi giorni, che l'acqua scarseggi, non so fino a quando i consorzi di bonifica nelle zone consorziate riusciranno a dare l'acqua, e questo non per colpa loro, ma proprio perché non sta piovendo neanche in montagna, quindi manca l'acqua, e investimenti a ettaro molto elevati, soprattutto nel caso del mais, senza avere la certezza irrigua, vuol dire rischiare molto, e la gente ha scelto di non rischiare. Quindi poca acqua, meno mais e più soia? Meno mais. Probabilmente i conteggi definitivi ancora non ci sono, però saremo per la prima volta sotto i 40.000 ettari sul territorio friulano, forse qualcuno in più, ma siamo sui 40.000 ettari, insomma. Un po' di più soia, qualcosa di più come girasole, qualcosa di più come sorgo, soprattutto nelle zone non irrigue. E poi, se vogliamo fare un cenno nuovo, in alcune zone, forse avete visto nelle nostre campagne già quelle piante con quel fiorellino bianco, stiamo provando a coltivare il grano saraceno. L'anno scorso c'erano circa 500 ettari, quest'anno forse ce ne sarà qualcuno in più, soprattutto perché è un raccolto che ha bisogno di poca acqua, si semina sia in primavera che a tardo luglio, per cui si possono diversificare i momenti, e costa poco, produce anche poco, ma il reddito c'è ed è soprattutto ha bisogno di poca acqua. Però soprattutto per quanto riguarda soia e anche per il mais le quotazioni tengono. Le quotazioni tengono, probabilmente, secondo me, sono destinate anche a tenere, ma il vero problema è che, al di là delle quotazioni, se non c'è l'acqua non produciamo, e soprattutto se non produciamo con costi elevati, come pensiamo all'aumento dei costi dell'urea, l'abbiamo pagata fino a 110 euro a quintale, o il gasolio, adesso il gasolio agricolo è a 1,50, 1,45, 1,50, quindi l'aumento dei costi di produzione è notevole, quindi investimenti elevati per redditi non certi perché manca il prezzo, non certi perché manca l'acqua, perché per il prezzo non ci sarebbero problemi. Foraggere. Foraggere, secondo me, è in calo, soprattutto derivata dal fatto che stanno chiudendo anche stalle grosse. Quindi questa è una conseguenza, le foraggere sono in calo, chiudono le stalle, calano le foraggere. Il costo dei fertilizzanti, quanto sta incidendo sulla scelta? Incide in maniera forte, perché se pensiamo che il prezzo dell'urea è praticamente triplicato rispetto all'anno scorso, ma il problema secondo me non sta proprio lì, lo ripeto, il problema è se noi fossimo la certezza di essere in un'annata normale dal punto di vista pluviometrico, in cui piove a sufficienza o almeno possiamo irrigare, i prezzi sono talmente elevati che i costi si potevano sostenere. Il vero problema è in mancanza d'acqua abbiamo dei costi elevati senza avere la certezza del raccolto, non dico del prezzo, del raccolto. Dal congresso annuale del biologico europeo di Bordeaux, Cristina Micheloni ci descrive il settore del bio in Francia, nazione che ha saputo recuperare il rallentamento degli ultimi anni e in tanti comparti insegna, soprattutto nella gestione delle filiere. Colgo l'occasione del congresso annuale del biologico europeo, che si è concluso ieri a Bordeaux, per portarvi qualche dato, suggestione, idea di quello che stanno facendo i cugini francesi. Ciò ci consente di dare gambe al vecchio adagio, vecchio ma sempre più che valido, dell'ecologia: pensa globale e agisci locale. Peccato che poi il mondo del business se ne sia un po' appropriato e lo abbia interpretato in modo distorto. Ma torniamo alla Francia. Perché il congresso europeo del bio a Bordeaux? Perché la Francia ha ripreso un ruolo da protagonista nel settore. Dopo esserne stata uno dei motori trainanti negli anni 80-90, va rallentato nei primi anni 2000 e si era messa in coda ai paesi nordici in termini di competenza tecnica, innovazione e consumo, e ai vicini mediterranei come Spagna e Italia come superfici coltivate. La rimonta è partita proprio allora con la costituzione di Agence Bio, che fornisce con tempismo e dettaglio invidiabile già l'elaborazione dei dati del 2021. 2,78 milioni di ettari coltivati in bio, ovvero il 10,3% della SAO, gestite da 58.000 aziende agricole, ovvero il 13,4%, dando lavoro a più di 200.000 persone. Ma al di là dei numeri, quello che rende protagonista la Francia è la solida strutturazione delle filiere, la messa a valore del legame territoriale nelle produzioni bio, sarà che il termine terroir lo hanno inventato loro, ed una politica che lavora con continuità, nonostante i cambi di colore politico e le differenze tra governo centrale e regionale. Fondamentale il ruolo delle comunità locali che si organizzano in terroir bio engagé, qualcosa di simile a quello che AIAB ha definito con il termine biodistretti, ma dove la parola chiave è la parola engagé, ovvero impegnati. Impegnati in che cosa? Nello sviluppo del bio all'interno delle locali politiche del cibo e dell'ambiente. Ad esempio, nell'area metropolitana di Bordeaux, ovvero 28 comuni per 800.000 abitanti, 4.500 ettari di SAU, 65.000 pasti al giorno nelle mense, che ha una propria politica del cibo, che non solo include un progressivo aumento di bio locale, bio e locale non sono scelte alternative come qualcuno da noi insiste a sostenere, ed una progressiva vegetalizzazione, ovvero diminuzione di prodotti zootecnici a favore di quelli vegetali, leggi le cereali in tutta la loro diversità. E proprio perché il bio fa rima con locale, senza dover mirare all'autarchia, la diversità nei piatti dei bambini a scuola e poi a casa, grazie all'effetto educativo che i piccoli esercitano sui genitori, si riverbera nei campi, influenzando e diversificando le scelte degli agricoltori. Ma visto che siamo a Bordeaux, non ci si può esimere. 38.528 ettari di vigneto bio, con una crescita sul 2020 del 33%. I dati si riferiscono all'intera regione. La viticoltura a Bordeaux è arrivata tardi nel bio, ma ora lo ha fatto in modo deciso, coinvolgendo anche i grandi nomi. Ma perché vi racconto tutto questo? Se volete, per dire che bravi sti francesi, ma non era quella l'intenzione. Che invece è, prendiamo spunto, ispirazione, ragioniamoci e magari iniziamo a costruire con genuino metodo partecipativo una politica del cibo e dell'ambiente targata FVG. Già nella scorsa puntata il professor Roberto Zironi ci aveva accennato a quanto fosse delicata la fase della fermentazione alcolica. Oggi entra nel dettaglio soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dei lieviti. Una fermentazione alcolica si considera corretta quando la popolazione dei lieviti, siano quelli indigeni presenti nel mosto, o meglio quelli inoculati da una coltura selezionata, prevale velocemente sui microrganismi non desiderati, come i batteri ad esempio. Ha un buon avvio e procede regolarmente nel consumo degli zuccheri fino al loro completo esaurimento. Per far fronte alle esigenze sopra elencate, vi è la necessità di porre a proprio agio i lieviti che dovranno condurre la fermentazione, in modo tale che l'innesco sia rapido e l'evoluzione costante senza intoppo. I lieviti sono organismi non troppo esigenti da un punto di vista nutrizionale, avendo necessità per il proprio metabolismo di idrati di carbonio, cioè degli zuccheri, principalmente come fonte energetica, e di azoto ed ossigeno per la produzione di biomassa. L'azoto prontamente assimilabile, l'APA, rappresenta la forma sotto cui l'azoto può essere facilmente utilizzato dai lieviti per la produzione di aminoacidi e proteine. Gran parte dell'azoto della disponibilità del lievito deriva dall'uva e le esigenze nutrizionali in azoto per del lievito sono mediamente pari a 250 mg litro. Se il contenuto è insufficiente, si corregge utilizzando prevalentemente sali di ammonio. Una carenza di sostanze nutritive, ed in particolare di azoto, può indurre uno stress metabolico da parte del lievito, che comporta un'eccessiva produzione di composti dello zolfo, specialmente ridotti, quale l'acido solfidrico dal noto odore di uva marcia. Per effetto del fenomeno Crabtree, in vinificazione il metabolismo del lievito è esclusivamente di tipo fermentativo e l'ossigeno presente nel mezzo è utilizzato dal lievito per sintetizzare altre molecole quali gli acidi grassi insaturi e gli stareoli della membrana cellulare, che permettono al lievito di adattarsi alle variazioni di temperatura e di resistere alle crescenti concentrazioni di etanolo che si determinano nel corso della fermentazione alcolica. La quantità di ossigeno che i lieviti richiedono per la sintesi dei lipidi è compresa tra i 5 e i 10 mg litro e vengono disciolti nel mosto con rimontaggio all'aria, con l'uso di tubi Venturi o dispositivi di macro-ossigenazione per permettere la somministrazione di ossigeno in modo continuo in singole dosi puntuali. La gestione dell'ossigeno in fermentazione non comporta soltanto una maggiore efficienza del lievito, ma anche un ruolo diretto nella gestione, sia come prevenzione che come rimozione, dell'acido solfidrico e di altri composti responsabili degli off-flavors di riduzione. Questo comporta la produzione di vini più fruttati, più intensi, aperti al naso e con minore tendenza alla riduzione. Fino a qualche anno fa si riteneva la nostra regione inadatta alla coltivazione del carciofo, ma non è così, come ci spiega nella sua rubrica dell'orticoltura Sara Bosco. Oggi parleremo dei carciofi, un ortaggio di origine mediterranea, tipico del centro-sud Italia, ma che negli ultimi anni sta trovando spazio anche nelle nostre zone. È una pianta adatta a orti di buone dimensioni, in quanto tende ad allargarsi nel corso della crescita. Predilige un clima mite e durante l'inverno è importante coprire le piante col tessuto non tessuto affinché lo possa superare senza portare a dei danni. È una pianta che perdura per diversi anni, circa 4-5, in quanto dopo potrebbero insorgere diverse patologie fungine. Il terreno deve essere preparato in maniera adeguata, evitare che si verifichino ristagni idrici nel corso della coltivazione e va eseguita una concimazione di fondo consistente. Il metodo più semplice per la messa a dimora è la semina o il trapianto, ma esistono anche altri metodi più laboriosi. La semina va eseguita intorno al mese di marzo, mentre il trapianto viene effettuato a maggio. Il sesto di impianto prevede una distanza sulla fila di circa un metro e tra le file di 1-2 metri. Il carciofo entra in dormienza con l'elevato caldo e la scarsità d'acqua, mentre in primavera nelle nostre zone ci regala i suoi frutti. Affinché questo esca dalla dormienza si possono effettuare delle irrigazioni primaverili che permettono l'entrata in produzione. Durante la coltivazione è importante effettuare una potatura dei germogli laterali in eccesso in modo da garantire un buon accrescimento dei frutti principali. La raccolta avviene quando il fiore ha ancora tutte le squame chiuse e più si aspetta, più il fiore matura e tende ad indurirsi. Teme diverse malattie fungine e parassiti che aumentano con l'avanzare dell'età della carciofaia. È una pianta un po' laboriosa, ma al mercato sono presenti diverse tipologie che vale la pena provare. Sp- Spesso nei proverbi sono celate raccomandazioni alimentari. È il caso dei cavoli e della merenda, di quale oggi ci svela i segreti Roberto Zottar, non senza indicarci una ricetta squisita a base, appunto, di cavoli. La tradizione sta anche nei proverbi che un tempo erano la saggezza dei popoli. Un detto recita «entrarci come cavoli a merenda», usato con riferimento a qualcosa che è inopportuna, come il cavolo, che non è un cibo da merenda. Il cavolo è presente in tutti gli orti, argomento di storie e leggende, come quello della nascita dei bambini. Mangiato fresco o conservato in diversi modi, fermentato come nei crauti, entra soprattutto nella cucina popolare. Durante la cottura emana un tipico odore ben diverso da quello della carne, da qui si distingue la cucina popolare da quella borghese. Cavolo è un'espressione che sostituisce una più volgare, mentre le signore usano il più gentile caspita. Merenda, probabilmente da merere o meritare, è uno spuntino, ma soprattutto un premio alimentare che si deve meritare. La merenda è un piccolo pasto freddo nel pomeriggio e non può essere certamente una zuppa con i cavoli, cibo oltretutto popolare e non da premio. Giovanni Ballarini, che ha scritto proprio su I cavoli a merenda, ci spiega che i cavoli contengono gli isotiocianati ed alcune sostanze particolari come i tioossazolidoni, che hanno un effetto depressivo sulla tiroide. Nel pomeriggio l'organismo umano ha una prevalenza del nervo vago e una iperattività dell'ormone della crescita con una ipoattività tiroidea, e quindi sono controindicati gli alimenti con attività antitiroidea come i cavoli. Per questo cavoli, broccoli e cavolini di Bruxelles, contenenti tiocianati che potenziano l'effetto degli agenti antitiroidei, non sono adatti per uno spuntino del pomeriggio. Quindi mai cavoli a merenda. Vi propongo quindi, non per merenda, ma per un pranzo estivo, l'insalata di speck con cavoli che serviva Gianni Cosetti al ristorante Roma di Tolmezzo. Affettate finemente 200 g di cavolo cappuccio e 4 cipollotti e metteteli in acqua ghiacciata perché restino croccanti. Tagliate a filetti sottili tre etti di speck e preparate una vinaigrette con un decilitro di olio, due cucchiai di aceto balsamico, uno spicchio d'aglio, sale e pepe. Asciugate le verdure e disponetele in 4 piatti, mettete sopra lo speck, condite e guarnite con pomodoro a dadini. Servite e sono cavoli vostri. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 32,70 a 33 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo nuovo raccolto, peso specifico 62,65, tra 28,70 e 29,20. Stabile l'andamento dei bovini a macello. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 2,60 3,20. Passando ai vitelli da ristallo, il valore del Blubelga maschio oscilla tra 6,10 e 6,60 euro al chilo IVA compresa. Quello dei pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, quello dei frisoni fra 1,90 e 2,20 e quello dei bruni fra 1,50 e 1,70. Resta al palo anche l'andamento del comparto suinicolo, con i lattongoli di 30 kg quotati franco partenza a 3,23 euro al chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,56 il chilo. È proseguito il buon andamento del settore caseario, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 7,10 e 7,40 IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 8,20 e 8,50, con marchio di qualità tra 9,20 e 9,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 8,60 e 9 euro. È migliorato anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli-Venezia Giulia, quotato francostalla tra i 47,10 e 48 centesimi il litro più premi qualità IVA. Mercato diversificato anche nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazengo di pianura viene quotato tra 10,50 e 11 euro al quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 16,50 e 17 euro e la paglia di cereali pressata tra 9,50 e 10 euro al quintale. In aumento il prosciutto di San Daniele, pagato con osso tra 10,90 e 15,90 euro al chilo, IVA esclusa, quello di Sossato tra 14 e 19,70. Da Legno Servizi di Tolmezzo rileviamo i prezzi del legno da ardere, che vengono quotati a 6,70 euro il quintale, rispetto al mese precedente il prezzo è aumentato di 30 centesimi. Infine, scambi fiacchi con prezzi stabili nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poli a terra varia tra 1,57 e 1,59 euro il chilo, IVA esclusa. Le anatre tra 3,51 e 3,55. I tacchini maschi da 2,28 a 2,30. Le faraone da 3,85 a 3,95. I conigli oltre 2,5 kg da 1,61 a 1,67. Le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Riguardando indietro alla prima parte del mese di giugno, notiamo come la prima decade si sia contraddistinta da un lato per il caldo, dall'altro per il passaggio di vari fronti, seppur in genere poco definiti, e tuttavia in grado di generare temporali locali, in particolare sui monti, o anche piogge più distribuite ma moderate, che però non hanno risolto la questione siccità. In merito al caldo, diciamo subito che la temperatura media è stata circa 3 gradi superiore alla norma. Le massime in pianura hanno spesso superato i 30 gradi e lo zero termico si è portato anche oltre i 4.000 metri di quota. Per quanto riguarda le perturbazioni, va segnalato il fronte del 5 sera, che dopo una giornata molto calda ha generato una linea temporalesca in moto da ovest a est sulla regione, con vento sostenuto o localmente forte in pianura, specie nel Pordenonese e Basso Udinese, dove si sono toccati 90 km orari, con grandi annate significative. In quota, sulle vette nella zona di Piancavallo si sono registrate raffiche da ovest tra 100 e 130 km all'ora. La costa stavolta ne è rimasta sostanzialmente immune, anche se la temperatura è scesa di 10 gradi in poche decine di minuti. L'inizio della seconda decade è stato dominato dall'anticiclone caldo, che ha portato di nuovo le temperature massime della pianura ben oltre i 30 gradi, col caldo che si è fatto ben presto afoso. Si può ben dire che l'estate è già iniziata da un mese, quando astronomicamente non siamo ancora al solstizio. Tra il 13 e il 16 giugno, deboli fronti poco definiti hanno determinato qualche debole pioggia e qualche temporale in un contesto di cielo poco nuvoloso variabile. Poi dal 17 a oggi l'anticiclone caldo in quota ha portato stabilità e sole pieno, con temperature massime sempre sopra i 30 gradi in pianura e medie sui 24-25. Valori questi di circa 5 gradi sopra la norma del periodo. Veniamo adesso alle previsioni per la prossima settimana. Diciamo subito che farà molto caldo, almeno fino al 24. Ciò, legato al fatto che siamo nelle giornate più lunghe dell'anno e col sole più alto nel cielo, oltre i 67 gradi sull'orizzonte alle ore 13, e che quindi determina una forte radiazione che ci colpisce direttamente, darà luogo a una significativa ondata di calore anticipata rispetto al più classico periodo del caldo estivo, compreso tra luglio e agosto. È plausibile che questo giugno risulterà, a conti fatti, tra i più caldi della storia, anche se probabilmente non batterà il record del 2003 e del 2019, che lo segue a pochi decimi di grado di distanza. Più probabilmente si confermerà tra i primi 5, con circa 3 gradi oltre la norma, il che ci dice inequivocabilmente che ormai da una ventina d'anni a questa parte il mese di giugno è diventato un mese pienamente estivo, caldo e secco, non più primaverile, mite e piovoso come era in passato. A conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, del cambiamento climatico in corso. Oltre al caldo, da lunedì a venerdì si altereranno fasi di instabilità sulla zona montana, con occasione per locali temporali che a fatica dopo mercoledì potrebbero estendersi a qualche zona di pianura. Da venerdì l'instabilità potrebbe estendersi ad altre zone della regione, specie nel prossimo fine settimana, quando potrebbe aversi un deciso calo termico. Naturalmente vi sono diversi elementi di incertezza, quindi raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI, sul sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A San Juan col Floc in Man, ovvero a San Giovanni, il 24 giugno, la pannocchia inizia a mostrare il fiocco, il pennacchio. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.